Ci siamo ragazzi. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ciao a tutti. Convocati 800240024, Giorgio De Luca, nostro autore, Filippo Oreggi in regia, Daniele Buonamici in redazione. C'è Giovanni Capuano che è arrivato di corsa dalla fantasmagorica e pirotecnica imperdibile. Imperdibile. Riunione imperdibile è il termine giusto. Lega. Tra l'altro, purtroppo l'ho dovuta mollare lì a metà. Ti stavi divertendo come. Mi stavo divertendo, però se vuoi ti racconto che cosa stava succedendo al quarto piano, in quella stanza chiusa dove i presidenti stanno discutendo del futuro del Parma, che nel frattempo. Tempo però potrebbe anche andare avanti per conto suo, almeno domenica, perché uno dei cortocircuiti di questa giornata un po' particolare in cui c'è un presidente che ha ottenuto il via libera per conto suo per giocare domenica, e quel presidente Manenti, che però in Lega hanno detto no, noi non lo conosciamo, non ci fidiamo. Chi ha dato via libera? Il GOS, che è un tavolo istituzionale, quindi tanto vuol dire che ritiene credibile Manenti e le garanzie che ha dato sul fatto che paga gli steward e può garantire che domenica si giochi. In Lega non lo vogliono nemmeno vedere Manenti, stanno studiando il piano alternativo. Mi hanno raccontato pochi minuti fa le seguenti cose: tra urla e strilli, ma pare che si possa fare. Sì? Tra urla e strilli, ma pare che si possa fare. Questa mattina avevano Tavecchio, un po' la faccia così, presidenti. Sì, il piano Tavecchio. Quello si paga metà degli stipendi per 3 mesi, si arriva alla fine della stagione, si salvano un po' di capri, un po' di cavoli. Anche sì, qui siamo nella parte dei club che devono tirare fuori quei 5-6 milioni, perché poi il resto si giocherà questo pomeriggio quando Tavecchio prende la macchina e va a Parma. Però a quel punto trova anche Manenti lì, perché Manenti lo sta aspettando insieme alla finanza, non lo so. Insieme alla guardia di finanza, adesso questa la spieghiamo. Intanto i juventini sono tutti allarmati, basta con Ogbonna, Marchisio e Bonucci, Allegri si gioca credibilità col Dortmund. Ogbonna parliamone, Marchisio è stato praticamente il migliore della Juventus fin qui e Bonucci mi sembra il Chiellini, stante l'assenza di Barzagli, cioè un giocatore imprescindibile. Mi sembra che stiano un po' perdendo la pazienza e siano un po' preoccupati gli juventini. Poi parliamo anche di questo. 800-24-0024 dopo la vittoria della Fiorentina ieri sera, la partita di andata con la superstar Salah che Mourinho ha regalato, a quanto pare, al calcio italiano. Misteriosamente, forse. Allora, torniamo un attimo alla Lega, perché abbiamo delle voci a far sentire, Giovanni. A partire da Zamparini. Come falliscono le società di capitali in Italia, ne sono fallite tante con la crisi, può succedere anche nel calcio. È incredibile che ci sia un megafono così forte per una cosa che secondo me nella società succede. Se una società viene gestita male fallisce. Io non penso che se una società nella società normale fallisce poi le altre società devono farsene carico. È chiaro che c'è una cosa che noi dobbiamo preservare il campionato per i tifosi e vediamo se ci riusciamo, insomma, se vedere un momentino. Certamente i giocatori non sono quelli di Serie C, gli stipendi non sono quelli della Serie C, per cui che io pianga per Cassano che non prende lo stipendio, sicuramente no. Sarà andato via da un po', magari Zamparini non se lo ricordava, o forse non sapeva. Il proibitivo incontro contro il Sassuolo tra 4 giorni ha spinto il mediocre Allegri a fare anche turnover. Mai come quest'anno la Juve è in testa grazie alla penuria degli avversari, forse hanno ragione le male lingue a dire quello che dicono su aiutini decisivi e gol di culo al 93esimo minuto, eccetera, eccetera. Saluti da Ale, finale Emilia, 349-238. Un amico della Juve, no? Un amico di Allegri e della Juventus. Lugaresi del Cesena. Verificare se ci sono le condizioni perché le regole vengono rispettate. Partendo soltanto dalle regole certe, allora ci si può anche mettere una mano nel cuore e una mano al portafoglio. E la lettera di scambio me l'aspettavo che. Condividere i contenuti? Ma sì, mi sembra che sia normale, c'è una squadra che ha già saltato 2 partite e gli accordi vanno rispettati. Secondo me è già un campionato passato. Questo Lugaresi. No, meraviglioso, perché in realtà la lettera di Sky dice, tra le tante cose, noi vi abbiamo pagato anche l'ultima tranche dei diritti TV, voi adesso quei soldi lì, che sono soldi dei club, li dovete usare per far fare queste benedette 15 partite al Parma. Quindi Lugaresi non la condivide la lettera di Sky, perché il Cesena non ha nessuna intenzione di autotassarsi, e se passa la linea di Sky, sì, poi la puoi tradurre come vuoi, ma di questo stiamo parlando, cioè dei club che si autotassano, che si devono mettere mano in tasca per dare i soldi al Parma, cosa che nelle regole in questo momento non esiste, quindi non si potrà mai stare nel solco delle regole. Ed è per questo che se le stanno dando di santa ragione, anche se un po' tutti, questa è l'impressione che ho ricavato, hanno capito che in qualche modo devono dar ragione a Tavecchio, sì, perché poi c'è in gioco tanto di più. Sì, allora, caso Manenti, oggi assemblea di Lega, ma sono arrivati tutti i presidenti, l'Empoli con un'ora e mezza di ritardo, era prevista alle 11, eccetera, ma sai, se c'è maltempo, e non c'era Manenti. Manenti, no, non c'era Manenti, in realtà poco prima che andasse via è arrivato un dirigente del Parma. È arrivato un dirigente del Parma. Non si sa rappresentare chi, perché esatto, oggi il Parma e Manenti, che ti ripeto, in Lega hanno detto noi qui non lo vogliamo nemmeno vedere. Ma lui era a Parma che aveva da fare con la Guardia di Finanza, giusto? Guardia di Finanza che oggi è andata a Parma, ma non solo Parma, è arrivata anche a Milano a un certo punto, a Roma negli uffici della Federcalcio, ed è andata un po' a prendersi i libri contabili, i documenti. Pare tutto in preparazione dell'udienza fallimentare del 19 marzo, che a questo punto resta sempre quella data lì, quella più importante, dopo la quale si potrà fare a meno di Manenti anche secondo le leggi dello Stato italiano, perché fino a oggi, ricordiamo, Manenti, che piaccia o non piaccia, poi lui si ispira a Perez e gli piace il 3-4-3. Ha detto a chi si ispira, al presidente del Real Madrid. A quello del Real Madrid. Ecco, piaccia o non piaccia, per quanto possa sembrare surreale, però Manenti è il presidente del Parma. E Giorgio De Luca gli ha fatto uno squillo. Mi dice solo se oggi va in Lega? Lei è un presidente di una squadra di Serie A? No, non vado. Come mai non va? Perché abbiamo un controllo in corso. E lei sa che Preziosi, Zamparini hanno detto di non fidarsi di lei? Cosa posso fare? Non ha niente da dirgli a loro? Niente, non l'ho mai commentato. Lei che cosa si aspetta da questa riunione della Lega? Che facciano tutto senza di lei? Mi posso muovere, come faccio? Lei non si può muovere? No. Oggi arriverà Tavecchio lì per parlare con la squadra. Lo incontrerà? Vediamo come si evolve la discussione, come faccio a sapere cosa posso dirgli. Quindi non sa cosa dirà Tavecchio? No, non so cosa dirà lui. Lei non pensa di essere sostanzialmente stato tagliato fuori dal salvataggio del Parma? Ma il tentativo lo può fare solo la proprietà, lui può farlo in terzo. Tutti convocati. Sala BIM. Allontana Kurtic, attenzione perché c'è Salah, il più avanzato della Fiorentina, va l'egiziano, Salah a puntare Padoin, la velocità di Salah, Salah in area di rigore ed è il vantaggio della Fiorentina, capolavoro di Mohamed Salah, undicesimo minuto, 70 metri, palla al piede, questo è un giocatore che può spostare gli equilibri in qualsiasi partita nel nostro campionato. Llorente, palo gol, il pareggio della Juventus al 24esimo con Llorente. Altro errore, Salah ancora, Salah in area di rigore, Salah, nuovo vantaggio della Fiorentina, doppietta per l'egiziano, undicesimo minuto, 2-1 per la squadra di Montella. Il giocatorino questo, eh? 7 partite, 6 gol, un assist, 432 minuti giocati, un gol ogni 72 minuti, meglio del primo Ronaldo dell'Inter, un gol ogni 88, ma siamo solo agli inizi, e anche del primo Ibra della Juve, un gol ogni 139. Il numero 74 è per ricordare le vittime allo stadio di Port Said nel febbraio 2012, quando si scontrarono la tifoseria dell'Al Ahly e quella del Al Mashri, 74 morti per l'appunto. Bel personaggino il ricciolino. Abbiamo fatto Giovanni Capuano ingrifare, facendogli sentire i gol, Benedetto Ferrara. Ciao Benedetto. Sì, me li potete rimettere un'altra volta? In loop, te li mettiamo in loop, se vuoi te li mandiamo, non c'è nessun problema. Come avrebbe detto Guido Meda, la nonna, cui dedichi spesso pubbliche e divertentissime telefonate anche sul sito di Repubblica, ieri ha fatto i saldi sul divano. Beh, così è andata, dai. Qui a Firenze oggi tra Ponte Vecchio, la piramide di Cheope, tra Palazzo Vecchio, la Sfinge, insomma c'è tutta questa grande fibrillazione, perché in effetti i numeri che tu hai elencato sono numeri pazzeschi. E la prima idea, innanzitutto, bisogna consegnare il fiorino d'oro, che è un'onorificenza, tu sai, di questa città, a Mourinho, a José Mourinho, il quale che me l'ha regalato. Il quale ha così gentilmente offerto un giocatore in prestito per un anno e mezzo con un diritto di riscatto fissato a 16 milioni di euro, pagato peraltro per questi mesi dal SES il suo stipendio, un giocatore che a suo tempo fu scartato da altre società italiane che hanno preferito altri giocatori, pensiamo alla Roma, e così Firenze si è trovata a fare questo clamoroso upgrade che non è solo tecnico, ma è esistenziale, perché questa è una squadra che, ricordiamo, ha battuto in una in fila all'altra il Tottenham, l'Inter e la Juventus, che non sono scherzi. Quindi mi sembra che i numeri parlino chiaro, ovviamente poi bisogna anche essere tranquilli e realisti, però la verità è che mentre giocatori scappano all'estero, questo campionato, come voi avete raccontato spesso e tutti, insomma, perde colpi dal punto di vista tecnico e emozionale, poi succede che arrivi un giocatore che faceva la panchina al Chelsea e travolga tutto questo, rivoluzioni, insomma, direi anche del nostro calcio, come sta facendo un po' a modo suo. Vi ha dato una mano anche Allegri, perché giustamente tu dici abbiamo battuto Tottenham, Inter e Fiorentina. Scusa, Juventus, ieri di Juventus all'inizio c'era pochino, c'erano 7 uomini diversi rispetto alla partita di Roma, c'era il 4-3-3 con Pepe e Coman, c'era una Juve che forse aveva deciso di prendere un po', non lo so, io non dico sotto gamba, però con un impatto diverso questa Coppa. Ma io, è fuori discussione questo, però penso sempre che anche un allenatore faccia parte della squadra. E al momento in cui tu prendi sotto gamba un appuntamento e poi a un certo punto capisci e cambi, no, le sostituzioni, penso a Tevez e tutto quanto, evidentemente hai sbagliato. La sfida è anche tra allenatori, e quindi in questo caso non volevo dire che la Fiorentina in assoluto è più forte di tutte le sue avversarie sempre e comunque, ma la verità è che sta vivendo un momento molto importante e il tifoso della Fiorentina sente un sentimento che raramente ha provato, cioè di avere una squadra forte non solo tecnicamente ma anche di testa, perché è una squadra che comunque, questo lo avrai notato, ieri quando è stata raggiunta comunque non ha cambiato il suo atteggiamento, anzi ha cominciato il secondo tempo nella metà campo della Juventus, e questo, come dicevo, è un upgrade esistenziale difficile da ottenere. Io penso, proprio hai citato la Juventus, pensavo alla Juventus di Conte, no? La squadra cattiva dall'inizio alla fine, sono cose che fanno nella costruzione di un amore e di una squadra, ecco, sono 3 anni di lavoro meravigliosamente sofferto di Montella, che adesso sta dando dei frutti, anche perché c'è una rosa all'altezza, ci sono ricambi e anche di fronte agli infortuni, giocatori magari come Badel, come Kurtic, che non sono Pizarro o Borja Valero, ma in realtà dentro questo involucro, questa situazione costruita fanno da Montella, loro, certo. Vengono fuori anche loro, insomma. Certo. Do 3 numerini: 10-04-2013, 10 aprile 2013, ultima sconfitta della Juventus al Juventus Stadium con il Bayern. 6 gennaio 2013, ultima sconfitta nello stesso luogo, cioè in casa sua, con la Sampdoria. Ultima sconfitta con una squadra italiana, tanto per fare ingrifare ancora di più Benedetto Ferrara. Che insomma ha una si diceva c'è un valore aggiunto in questa vittoria: da un lato porti a casa mezza finale di Coppa Italia, dall'altro lato apri una crepa nelle certezze soprattutto del pueblo bianconero nei confronti della signora. Ma io chiaramente, insomma, la partita già con la Roma, no, aveva dato qualche segnale, forse pensando alla Juventus al suo momento. Probabilmente ieri ha preso sotto gamba la partita Allegri, però io devo dire ho visto una squadra meno cattiva del solito, ho visto il centrocampo della Fiorentina e il centrocampo bianconero è un signor centrocampo, al di là dell'assenza di Pirlo, prendere spesso il sopravvento e forse quella cattiveria l'ha ritrovata pensando alle sfide di Champions League. Io credo anche che quando una squadra vive un profondo turnover come ha fatto parte la Juventus, poi ci sono giocatori che comunque hanno poche occasioni e quindi potrebbero farsi vedere. anche la Fiorentina era molto rimaneggiata ieri, questo va detto. Comunque, ti ripeto, io credo che se dei segnali dovevano arrivare, dei segnali sono arrivati. Ricordiamo, e non lo dico per partigianeria, perché poi ovviamente c'è passione, ma insomma, insomma la Fiorentina è all'inseguimento del terzo posto in campionato, che non è semplice, ma è anche agli ottavi con la Roma di Europa League, sta vivendo un momento oggettivamente importante. Credo che al di là della partigianeria, bisogna dire che il calcio di Montella è un calcio che tiene alto il nome del nostro campionato in questo momento. È uno dei migliori spettacoli che è possibile vedere da queste parti. Cioè, non ci sono discussioni, ma lo stiamo dicendo praticamente tutti i giorni. Peccato vada al Milan, no? Peccato vada al Milan. Montella. Come? No, peccato vada al Milan, ma si è riacceso l'amore. Con Firenze, no, sembra un progetto un po' consumato. Beh, però fino a due mesi fa, adesso Benedetto, con tutta l'onestà e la sincerità, Montella, io leggevo critiche feroci nei confronti di Montella a Firenze. Cioè non era più così amato, non era più così riconosciuto come la guida di un progetto vincente, bello, fresco, tutto quello che poi abbiamo riscoperto nell'ultimo mese. No, hai ragione, il terzo anno questo anno, l'inizio di questo anno è stato il più difficile, perché se il primo anno è l'anno della grande sorpresa, no? Ripartivi da zero, no? Come è stata anche la Roma il primo anno. Il secondo anno è stato quello più o meno della conferma, poi ci sono stati gli infortuni, i Rossi, di Gomez, quindi tanta sfortuna. All'inizio, no, cosa succede? Succede che la luna di miele è finita e bisogna passare più ai fatti. E su questo sicuramente ci sono state delle crepe nel rapporto tra Montella e un po' la società, delle crepe su del mercato, che insomma qualche sessione non è andata un granché, diciamocelo. Però cosa è successo? È successo che il gennaio della cessione di Quadrado è servito ad avere un confronto molto profondo e serio tra Andrea Della Valle, lo spogliatoio, e lo stesso Montella. Sì. A quel punto io ne parlai con Pizzarro, il quale mi disse: basta che quando sai che la proprietà non molla e rilancia, tutti siamo più sereni. Certo. Montella stesso, se mi perdoni, scusa se mi sono dilungato, ma il tuo tema, insomma, è un tema. Montella stesso ha detto quello che doveva dire. Ha messo la bocca nelle scelte, parlo di diamanti, parlo di una rosa, di un mercato di gennaio, non di giovani da prendere, inserire, aspettando, ma di giocatori pronti, lo stesso Gilardino, ha chiesto Salah, erano tutti d'accordo, è stato fatto questo e si sono rasserenati gli animi. Quindi io direi che vengano voci su Montella è normale, che al Milan possa interessare, credo sia anche naturale, però ecco, rispetto a prima, il futuro fiorentino di Montella adesso è qualcosa di più certo, mettiamola così, cosa che a novembre, dicevi giustamente te, sicuramente, come abbiamo scritto anche, il rapporto non era certo edificato. Futuro che, allora, ricordiamo, dipende da Montella e basta, perché è l'unico allenatore con la clausola. Sì. Benedetto, un'ultima cosa, c'è un altro numero: Quadrado al Chelsea, 5 presenze, 0 gol, ma lasciamo stare questo. Viola Pop Teatro, ti tocca infilarci anche Salah adesso, tuo spettacolo teatrale, come sei messo? Sì. Adesso devi infilarci l'egiziano. Sì, faccio, dovremmo cambiare anche la scenografia, tipo la Ida dovremmo fare. Sì. No, io, il 10 aprile al Teatro Puccini a Firenze c'è Viola Pop, meglio il Teatro che Ladri, che è uno spettacolo teatrale scritto da me, Leonardo Venturi, ci sono io, c'è lui, e soprattutto anche per gli amanti della musica ci sono due musicisti della banda Bardot, Lorra e Luto, che sono, insomma, è un gruppo famoso, importante. E quindi faremo questa cosa dedicata, ovviamente partendo dalla Fiorentina, però più sul sentimento e anche sul fatto che, come voi anche vista da fuori, Firenze è sempre un po' un teatro, no? È un teatro emotivo, un teatro di emozioni, è un teatro di sentimenti, e quindi Viola Pop è un modo per parlare di Fiorentina in maniera ironica, in maniera spero anche emozionale. Farlo a teatro il 10 aprile al Teatro Puccini. Grazie per avermi fatto questa domanda. Ma figurati, facci sapere. Questa autopromozione vergognosa. Facci sapere, è un piacere. Facci sapere e facci sapere soprattutto se porti anche il musicista egiziano. Siete tutti convocati, naturalmente. Siamo tutti convocati. Risponderemo. Tra poco chiediamo anche a Pardo. 800240024 è il numero verde. Grazie, Benedetto Ferrara, e buon lavoro con tutto quanto, grazie. Viola Pop compreso. Ci fermiamo per la borsa e c'è Luigi che scrive: carissimi, secondo voi è già iniziata l'influenza di Renzi su arbitri e Federcalcio? Sbucca lui, tutto solo, rete, subito il gol, incredibile, proprio lui, più appeso, incredibile. Si ricomincia. convocati. Mentre Giovanni Capuano è rimasto qui con me, eccolo qui Pierluigi Pardo. Ciao Pier. Come va? Molto bene, tu? Ho una gran fame, ma questi sono dettagli. Non mangiare troppo salato. Vai in Lega Calcio. L'amico Tancredi Palmeri ha appena twittato che da due ore vede solo passare panini su per il quarto piano, poi ha chiesto che cosa, se stanno a magnà. Però magari se vai, Pier, c'è qualcosa. Senti, l'hai visto Ricciolino ieri sera? Abbiamo finito di parlarne ora con Benedetto Ferrara. Adesso sognano la coppia Salah Giuseppe Rossi per il futuro, magari dal 7 aprile, perché Giuseppe Rossi dice che aveva messo questa data sull'agenda ritorno con la Juventus. Guarda, io la sentenza di oggi non toccherei nulla, con tutto rispetto per Pepito, che sappiamo se sta bene è un crack incredibile, ma la Fiorentina di adesso è la migliore Fiorentina di sempre. Di sempre, di sempre, gli ultimi, diciamo, dell'era Montella, secondo me è la migliore, perché è la più matura, perché ha imparato a giocare in modi diversi. La Fiorentina del primo anno era quella senza attaccanti, che faceva grande tiki-taka, che fu una grande novità, molto amata dalla critica, però poi nelle grandi partite si perdeva. Poi c'è stata questa grande illusione, questa grande dipendenza da questi due attaccanti, che è durata praticamente un anno e mezzo. Però poi sappiamo quanti problemi fisici hanno avuto, quindi quanto è stato complicato. Adesso invece improvvisamente, con il paradosso della cessione di Quadrado, che poi però ha tirato fuori il meglio, mi sembra la squadra più matura. Certo, Salah c'entra molto, credo che a Roma qualcuno si stia mangiando le mani, perché sappiamo che Salah anche a Milano, perché l'aveva in mare. Anche l'Inter a dicembre, gennaio ci ha pensato molto a Salah. Invece Mourinho il regalone l'ha fatto alla Fiorentina. È la domanda che fanno molti adesso, neanche una su messaggi SMS, che il senso è questo: com'è che i panchinari all'estero vengono in Italia a fare i fenomeni e i nostri vanno all'estero a fare panchina? Riferimento a Salah, riferimento a Shaqiri, riferimento allo stesso Quadrado, eccetera. Domanda che si fanno in molti, dal barco a sotto in poi, è questa: meno forti di altri campionati. Allora, però posso dirti, Salah e Shaqiri, io adesso non mi ricordo se l'avevo detto, non voglio fare quello il bravo bambino che alza la mano. Sono due che conosciamo bene, da Basilea, fra l'altro tutti e due hanno avuto esperienza al Basilea, sono due giocatori, sono due grandi talenti, e poi sono finiti in due club che sono Bayern e Chelsea, dove insomma non è facilissimo, cioè stiamo parlando del top, siamo al top. Per cui non sono soltanto i campionati stranieri, cioè passare dalla prima del campionato tedesco, una delle squadre più forti, passare al Bayern, al Chelsea, con tutto rispetto all'Inter e alla Fiorentina, insomma è un bel salto. Non sono equiparabili in questo momento queste corazzate con le squadre del campionato italiano, no Giovanni? Sono realtà diverse, e secondo me il tema da ieri sera a maggior ragione è anche un altro. Cioè, se ad esempio la nostra corazzata, cioè la Juventus, per il periodo di condizione che sta attraversando, sia in grado di passare indenne da Dortmund, perché quello poi serve. Qualche dubbio io francamente comincio ad averlo. Pier, è vero che era mezza Juve quella di ieri, ne abbiamo parlato prima, però secondo me il tema che lascia ieri è questo, al di là dei complimenti doverosi alla Fiorentina. Sì, sicuramente fino a ieri la stagione della Juve sembrava una gestione tranquilla, attenta delle varie situazioni. L'avevamo detto, insomma, la sensazione di una Allegri diversa rispetto a Conte, meno estremista dal punto di vista del puro agonistico, una squadra più rilassata che si prendeva qualche pausa perché si stava gestendo. È chiaro che la sconfitta di ieri, soprattutto se non ci sarà il miracolo per la Juve della qualificazione al ritorno, insomma, sarebbe un passo, cambierebbe un po' questo tipo di equilibrio. Poi soprattutto la dimostrazione di forza che ha dato la Fiorentina ieri è impressionante, perché al di là di tutto, al di là del risultato, ci sono stati larghi tratti della partita allo Juventus Stadium, dove ieri sera ho twittato un po' di numeri, dove ovviamente non vince nessuno, diciamocelo apertamente, uno stadio fortezza, vedere la Fiorentina dominare, come è successo per esempio in avvio di ripresa, in quei 10 minuti che poi hanno portato al gol del 2-1, è abbastanza impressionante. Quindi la tentazione di pensare che ci possa essere un calo fisico sicuramente c'è. Poi il fatto che chiaramente se schieri Pepe, tanto per citarne uno che ovviamente in questo momento ha meno ritmo partita rispetto ad altri, che tra l'altro fa anche l'assist dell'1-1, non va dimenticato, qualcosa concedi, questo ci sta, insomma. È la grande domanda. Sì, sì, siccome vi piacciono i numeri oggi, se volete ve ne do altri due. Vai, cioè, vai, quelli vai, di vai. Ieri sono stati gol 7-8 nelle ultime 6 partite, gol presi. Ed è, tra l'altro, noi abbiamo passato qualche settimana a parlare dei gol presi su palla inattiva dalla Juventus, dicendo che è un limite. L'hanno preso col Milan, l'hanno preso con l'Atalanta. Segnalo che il raddoppio di Salah è il secondo gol preso su pressione alta degli attaccanti sulla ripartenza dell'azione della Juventus dopo lo scivolone di Chiellini. Mi viene quasi in mente, siccome Klopp ci aveva raccontato che era una situazione studiata, che evidentemente chi va a giocare contro la Juventus ha individuato lì un punto debole. Ha fatto scuola questo sì, caso, poi un'altra parte. Per fare, perché per dirti la Roma non è riuscita a farlo, o non l'ha individuato, non è riuscita a farlo se non in quel generoso bel quarto d'ora finale. Ma io ti dico, io la Juve contro il Dortmund non l'ho vista male, l'ho vista molto bene. Secondo me era più sarà più vicino la Juve a fare il 3-1 che il Dortmund a pareggiare, quindi le sensazioni secondo me sono positive. Certo, la partita di ieri apre delle domande. La risposta potrebbe essere il turnover di ieri, che comunque ha fatto danni, oppure qualcosa di più profondo. Insomma, ci auguriamo di no, ovviamente, in vista di Dortmund. Certo, ma poi sono diversi pareggi, qualche pareggio di troppo, qualche infortunio, il blackout di Roma, sono tanti singoli segnali di preoccupazione. Il calo di Marchisio, che fin qui è stato quello che ha tenuto in piedi il centrocampo in maniera costante. Luigi Trento, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno a tutti voi. Io che vi chiamavo perché mi sembrate una delle trasmissioni un po' più serie di tutto l'arco sportivo italiano. Beh, nel senso che è vero, quando devi parlare merito di Capuano, il signor Capuano, è quello serio dei tre. Lo fate in maniera molto ragionata e cercando di tirare fuori i veri motivi dello sport, insomma, al di là di tutte le diciamo i fuochi d'artificio che vengono fuori, no? Prima, per esempio, una frase mi è parsa molto molto azzeccata. Chissà perché quelli che vengono dai campionati esteri fanno i grandi qua in Italia, mentre all'estero fanno i panchinari, e i nostri che sono i campioni qua e vanno all'estero e fanno i panchinari invece. Questo dovrebbe dare un po'... Ma secondo me è abbastanza circostanziale, comunque. Non lo so. I livelli in gioco. Però io quello che volevo dire, al di là, perché prima si è detto anche, non so, è un giornalista quello che parlava di Firenze, no? Della Fiorentina. Benedetto Ferrara, sì. Diciamo che, vabbè, ovvio che l'esaltazione ci sta in questi momenti, però io prima di esaltarmi in tante cose vorrei dire, cominciamo a mettere a posto un po' le cose che sono veramente penose da noi, tipo quella di Parma, insomma, quella di Parma è una cosa... Sì, ma... è una pena incredibile. Questo lo sappiamo. Anche all'estero hanno vissuto i loro casi Parma, le loro situazioni. Ricordiamo il Levante, in cui peraltro, ricordavo l'altro giorno, giocava l'attuale presidente dell'associazione calciatori, cioè Damiano Tommasi. Grazie Luigi. Sentiamo anche Roberto, provincia di Milano, e poi ci fermiamo per il traffico e rispondiamo dopo il traffico. Roberto, dica. Sì, buon pomeriggio. Buongiorno. Niente, grande, grazie della popolazione. Niente, volevo solo fare un piccolo considerazione su Juventus e Fiorentina. Sì. Agli juventini, se ogni tanto, ma secondo me sono anche più simpatici, insomma, ecco, quindi non ce la prendino tanto, ecco, probabilmente questa cosa qui volevo dire. Un'ultima cosa, li faccio tanti auguri per Dortmund. Ciao a tutti. Certo, saranno tutti contenti gli juventini di auguroni, raccoglieranno questi auguroni, tanto sono anche più simpatici, quindi auguri. Tutti convocati. Città la sento molto vicina. E per cui sono stimolato a cercare di far sì che quello che hanno pensato di me quest'estate sia ancora attuale, e mi sembra che lo sia, perché se no non sentirei la società così vicina a me. La squadra comunque mi segue e ha voglia di far bene, per cui questo è il mio pensiero principale. Poi so che quando sei allenatore del Milan si è sotto tiro tutti i giorni. Questo Filippo Inzaghi, che ha parlato stamattina in vista della partita di domani sera contro il Verona in casa, che potrebbe decidere il suo destino. La società gli è così vicina che gli alita sul collo, io credo. Ma Siamo vicini. Siamo vicini. In tanti che ti ho quella meravigliosa battuta di Funari Guzzanti che inseguiva la porta, sempre fatto da Guzzanti, Paolo. Sì. Di Corrado Guzzanti, dove gli diceva e diceva una roba tipo: siamo in tanti che ti seguiamo, ma non ti fermare, che se te fermi te compiamo del botte. Sì, più o meno il senso è quello. Ma ha detto un'altra cosa abbastanza comica, Giovanni e Pierluigi, ve la faccio sentire. Ho magari pensato che a destra arrivassero meno palloni che nella Roma, invece, insomma, dalla ricerca che è stata effettuata, destro nella Roma in 90 minuti toccava 20-21 palloni, al Milan 19, quando giocava Menez centravanti ne toccava 42, per cui queste sono caratteristiche di ogni singolo giocatore. Noi conosciamo benissimo le caratteristiche di destro, Pazzini o di Inzaghi, e dobbiamo cercare di sfruttarle al meglio. Meno iPad e più gol. Mi spiegate cosa vuol dire? No, vuol dire che qualcuno gli ha fatto notare che credo nell'ultima partita a destra siano arrivati 11 palloni in 65 minuti e giustamente si è posto il problema di un giocatore completamente fuori dagli schemi, perché è vero che destro è uno che la deve toccare poche volte, deve fare gol, è un finalizzatore, però è anche vero che c'è un minimo sindacale sotto il quale tu non puoi andare, e nelle ultime due o tre partite destro è parso un corpo estraneo rispetto al resto della squadra. Io credo che Inzaghi stia cercando in tutti i modi di difendersi, cioè tu qualunque cosa gli dici lui ha una risposta, la trova nei numeri, poi c'è il numero che è quello che in realtà fin qui lo condanna, è che ha fatto 34 punti in 25 partite. Seedorf l'anno scorso nelle 19 che ha avuto a disposizione ne aveva fatto uno in più, 35, eppure è stato cacciato. E il fatto che Menez tocchi più palloni cosa vuol dire, Pierluigi? Gioca in un modo diverso. No, Milan si è incartato su Menez, non ci sono grandi dubbi, cioè secondo me proprio Caspio Croce delizia, nel senso che è certamente il giocatore migliore del campionato del Milan senza alcun dubbio, però ha fatto sì che si abbia praticamente ucciso tutti gli altri attaccanti. Adesso si è fatto il ragionamento sui palloni toccati da destra, ma qualche partita fa, mi pare contro il Sassuolo all'inizio dell'anno, si fece un ragionamento simile per Pazzini, che mi pare avesse toccati 11 o qualcosa del genere. Insomma, cioè, il tema è sempre quello, ed è il paradosso di Inzaghi, cioè come uno dei grandi attaccanti centravanti puro della storia del calcio italiano si sia incartato sul ruolo che conosce meglio. Sì, allora, certo. Il problema secondo me è che non c'è qualità in mezzo al campo. Certo, il problema del Milan è quello. E poi ai palloni agli attaccanti li devi far arrivare, perché se giochi con fantasista, il falso 9, questa definizione ormai non la supporto più, però se giochi con questo tipo di giocatore al centro dell'attacco è chiaro che questo tocca più palloni che se li va a cercare da soli. Sì, però non è che serve Iniesta per far toccare più di 11 palloni al centravanti, evidentemente esiste anche un po' di confusione tattica, che del resto io credo Pier sia anche giustificata da una squadra che è nata con Torres, poi ha giocato col falso 9, poi c'è stato un periodo di qualche settimana, te lo ricordi benissimo, che Berlusconi ha di fatto imposto il ritorno di Torres, poi dopo il derby si è deciso che Torres non andava più bene e si è tornato al modulo prima, poi hanno preso le ali per fare il 4-3-3 e si è scelto un modulo diverso perché a gennaio e febbraio le cose non andavano bene e cioè poi le ali non giocano. Io mi metto anche nei panni dei giocatori del Milan, secondo me non è neanche una questione soltanto di qualità, perché non è che gioca nessuno nel Milan, non è che sono giocatori che non hanno titolo per stare in Serie A, effettivamente c'è anche un po' di caos. No, ma il caos c'è, è enorme, e sicuramente non riguarda i singoli giocatori, ma riguarda il modo di giocare. Per me i problemi sono tanti, ma il principale è quello che dicevo prima, cioè è un centrocampo povero, è un centrocampo non da Milan, non ha qualità, che va in difficoltà soprattutto con le piccole, che va in difficoltà soprattutto quando deve imporre il gioco, perché non ne ha. Questo è il problema. Certo, lì dove c'è la fonte del gioco, il Milan è arido. Questo è strutturale. Antonio, provincia di Bari, grazie dell'attesa. E mi scusi. Buongiorno. Non si preoccupi. Buongiorno a tutti. Grazie per l'occasione. Ti chiamavo per la sentenza del giudice sportivo Toselda. Sì. Che nonostante i cori in Lazio-Napoli sono stati esertati in ben 5 occasioni, ha sanzionato solo con 20.000 euro la società sportiva Lazio. Ora, da cittadino italiano, nato e cresciuto a Napoli e per lavoro a Bari, io mi sento indignato, anche perché ho un figlio di 8 anni e non so cosa dire. Siamo arrivati allo scempio più totale. Questi signori, non solo i laziali, parlo di interisti, di uintini, milanisti, addirittura cantano questo coro vergognoso anche negli stadi europei di Glasgow, e nessuno fa nulla. Ma d'altronde abbiamo un presidente federale che è stato ammonito dal UEFA per razzismo, e il presidente del Poli, questo però, mi scusi, non è, posso dirle, stiamo mischiando i piani un po', sì. No, secondo me non è questo. L'anno scorso Giovanni è un professore della materia, c'era una interpretazione molto più restrittiva su queste norme, e si è arrivati alla più abbastanza ha adottato un atteggiamento molto soft. Sì, l'anno scorso si chiudevano gli stadi, le curve, gli stadi, quest'anno si chiudevano le curve, si sono chiusi gli stadi, e il problema non si è risolto. Io non ho un'opinione su questo. Ieri ha chiamato un altro tifoso del Napoli, vi ricorderete, nella seconda parte della trasmissione, che la pensava in maniera diametralmente opposta a lei, sì. Nel senso che diceva da napoletano di non sentirsi indignato di fronte a queste cose. Io quello che posso dire, l'unica cosa che possiamo fare, secondo me, è invitare la gente a conoscersi, a viaggiare, a andare nei posti. Chi va a Napoli scopre una città che ha dei problemi, ma che ha una bellezza indiscutibile, enorme, grandiosa. Io non vedo l'ora di tornarci. Più che dire questo, poi il resto sono schermaglie fra tifosi. Lei ha ragione, certamente, sono cori orrendi, lo diciamo senza se, senza ma non è che l'anno scorso, quando venivano sanzionati, questi cori sono venuti meno, anzi, addirittura il potere dei tifosi, certo, di ricatto nei confronti della società aumentava. Sono diventato uno strumento di ricatto. Io posso dire che amo il Vesuvio come strumento del panorama e amo Napoli, e penso che chiunque c'è stato, e non è una formula astratta, la bellezza è ovunque in Italia. Viaggiare attraverso il calcio, uscendo dai campanili, può essere un'occasione per coglierne il senso e per sentirsi parte di questa enorme bellezza. Se uno ha un minimo di intelligenza, sì, però questi probabilmente, magari meno. Pier, stai lì, che abbiamo un gioco, Carlo, stupido, un gioco da cretini, ma è un gioco. GR, poi torniamo. Volevo fare gli auguri a Pardo, perché oggi è la giornata mondiale del gatto, e chi meglio di lui è un bel gatto pardone. Convocati. Allora, la compagnia si è allargata. Oltre a Pierluigi Pardo collegato con noi, Giovanni Capuano che con me, ci ha raggiunto Marco Berinazzo dal piano di sopra, da Sole 24 ore. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao. C'è ancora ciao. Ci sono degli aggiornamenti importanti dalla Lega Calcio, perché pare che sia tutto fatto. Sì, pare che sia tutto fatto la parte dei club. Alla fine non sarà la colletta, che era l'ultima delle ipotesi che Tavecchio aveva preso in considerazione per trovare quei 5-6 milioni di euro, ma quei 5-6 milioni di euro le società si sono messe d'accordo, si sarebbero messe d'accordo, sta succedendo in questi minuti, per prenderli dal fondo delle multe. Quindi abbiamo anche capito perché hanno rimesso le multe per i cori, e dai, facciamo una battuta, visto che ne parlavamo prima del GR. Esatto, possono anche aiutare a salvare il Parma. Stanno finendo di definire la cifra, che poi verrà portata, lo ricordiamo, ai giocatori, perché saranno loro a dover accettare, perché comunque devono accettare un taglio di circa il 50% dei prossimi 3 mesi di stipendi. Però pare che i club abbiano messo una mano sul portafoglio, tra l'altro credo restando all'interno delle regole, Marco, no? O comunque restando cercando di tirarle, ma all'interno, all'esterno, ormai, cioè, non si autotassano, Io credo che la presenza stamattina lì in quegli uffici della Guardia di Finanza abbia portato tutti a più miti consigli, perché, diciamo, se si scoperchiassero tutte le questioni connesse al caso Parma, credo che molte altre società tremerebbero e dovrebbero giustificare situazioni analoghe. E quindi per il momento è meglio chiuderla qui, portare il campionato al termine con 20 squadre, trovare un acquirente per il Parma l'anno prossimo in B, cambiare le regole, tornare a una presunta severità e evitare, appunto, che si vada a guardare troppo poi in fondo ai bilanci, ripeto, di tanti altri club, anche di Serie A e moltissimi di Serie B, che sono in condizioni non molto distanti da quelle del Parma. Quindi creando magari un precedente, perché oggi a me, domani a te. Pierluigi. Sì, mi sembra che sia l'unica soluzione fattibile. Mi sembra che oggi, quasi oggi, sia la deadline oltre la quale non si può andare. È nettamente preferibile una soluzione, anche se poi certamente già siamo ben oltre i paletti della logica e della giustizia, perché come dicevo cinicamente qualche giorno fa, non si capisce perché l'Udinese non abbia ancora i 3 punti in saccoccia, come diciamo noi a Roma, no? Da un punto di vista di diritto, visto che il Cagliari, come ricordava l'ascoltatore qualche giorno fa, perse per esempio con la Roma per un problema di inagibilità dello stadio. Quindi da questo punto di vista non è chiaro, però si deve trovare una soluzione, perché è il male minore è che ci sia questo accordo e che si creino le condizioni per chiudere il campionato nella maniera più dignitosa possibile, anche perché abbiamo visto la lettera di Sky, ma anche tu lavori in una TV che trasmette il campionato in diretta, altrimenti ci arrabbiamo e si sono arrabbiati giustamente. Salvatore Torino in linea da un po'. Buongiorno. Ciao, sì, ti ringrazio, saluto tutti. Senti, ieri sono andato a vedere la partita Juventus-Fiorentina, volevo parlare della partita, però siccome sono 2 o 3 volte che mi fanno entrare in curva a sud, allora niente, volevo spiegare, secondo me, che io sono andato pochissime volte allo stadio, però mi hanno portato, come funziona. Cioè, praticamente questi cori che sono contro i napoletani, pur contro i Granata o i fiorentini che ce l'hanno con i juventini, cioè è una cosa che va avanti secondo me da anni, e noi, cioè, si prendono in giro, cioè ormai è diventata una moda per gli ultra, ma se lei chiede un ultra, credo napoletano o Granata, è la stessa cosa. Però, cioè, posso dirti una cosa, sono d'accordo con te, però il Vesuvio che è rutta, no. Però Paparelli che è morto ed è morto veramente, no. Il colera che c'è stato 30 anni fa, no. Pezzotto che sappiamo, si butta, insomma, ha vissuto quel momento difficile, i 39 morti dell'Aisel, cioè, no. Che nessuno di noi vuole, almeno credo, vuole lo stadio come un teatro. Nessuno vuole che non ci sia il coro pezzo di oppure questa roba qui ci sta, lo sappiamo, non è che vogliamo il gemellaggio per tutte le squadre, sai che palle. Ci sono degli argomenti sensibili: Superga, Laisel, De Falchi, Paparelli, il Vesuvio che potrebbe ruttare, queste robe qui lasciamole perdere, perché in questo, qui siamo molto vicini a un possibile dolore vero delle persone, ed è veramente di cattivo gusto fare questi cori qui. Poi vuoi dire vaffa a Napoli, ma ci sta, è chiaro, se riposo la Juve in quel momento giochi contro il Napoli, le rivalità ci stanno, non credo che nessuno ti offenderebbe. È questo l'elemento qui che in qualche modo ricorda, evoca una possibile tragedia, o una tragedia che è avvenuta. Certo, tutto qua. Certo, semplicemente così. Volevo chiedere a Marco Berinazzi, invece, saltando di palo in frasca, come ci piace molto fare, abbiamo letto l'inchiesta di ieri sulla Gazzetta dello Sport, ma sono cose che saprai molto meglio, ed è certamente di me. L'Inter è una situazione disastrosa, la Roma pure. Cosa rischiano adesso? Bene, nell'ottica del fair play finanziario, la UEFA credo abbia già preso grosso modo le decisioni, che sono quelle di punire senza, come dire, uccidere il bambino nella culla. Sicuramente l'Inter ha una situazione peggiore della Roma, ma l'abbiamo sempre detto. L'Inter beccherà, diciamo, una sanzione economica tra i 5 e i 10 milioni, più vicina ai 5 che ai 10, e una limitazione della rosa a 21-22 giocatori, che però potranno essere integrati da 3 giocatori della primavera. Ovviamente mi riferisco alla rosa per quanto riguarda l'Europa, sarà l'Europa League o la Champions League. Per la Roma invece si prevede una multa soltanto più o meno nella stessa entità dell'Inter, posto che diciamo il mercato di gennaio dell'Inter dalla UEFA è stato ritenuto più dispendioso di quello della Roma, comunque più impegnativo, a fronte del fatto che la Roma ha presentato un progetto di aumento dei ricavi legati allo stadio, anche se lì sappiamo, insomma, che a Roma stanno succedendo varie cose che l'iter non sta procedendo così speditamente come avrebbe dovuto, però in ogni caso il piano di aumento dei ricavi della Roma è, per giudici di Nione della UEFA, è più credibile di quello dell'Inter, perché quello dell'Inter si basa prevalentemente su un aumento dei ricavi commerciali che è collegato alle vittorie. Sì. E vista l'attuale situazione diventa quindi meno credibile poter raggiungere quell'incremento di ricavo che viene indicato. Diciamo che per Inter e Roma, ovviamente più vicino, molto più vicino per la Roma che non per l'Inter, l'accesso alla Champions League diventa fondamentale. Beh, pensa che la Roma con la semestrale che ha appena chiuso ha messo in cassa quasi 50 milioni dalla Champions e ha chiuso una semestrale in attivo di 8 milioni, credo, o qualcosa del genere. La prima dopo tanto tempo, ed è chiaro che senza quell'introito l'anno prossimo le cose si metterebbero male. Pierluigi, ma tu sei preoccupato per l'anno prossimo, perché lo sentiamo ronzare come una zanzara che non è Cruciani, questo ritornello secondo cui ci sono squadre messe peggio del Parma e magari l'anno prossimo ne vediamo degli altri, così eccetera. Tu sei preoccupato? Sono vigile, bello vigile, con il cappello da Ghisa o da Pizzardone. No, nel senso che se sentiamo appunto questi campani di allarme, un po' è anche secondo me l'effetto mediatico di quando succede una tragedia sportiva come quella del Parma, se ne comincia a parlare, sì. Qui devi chiedere a Berinazzo, cioè lui che ha sotto mano la situazione, che ci siano situazioni debitorie importanti in Serie A, ecco, non mi sorprenderebbe che si possa arrivare ai livelli del Parma, no, qui la speranza, l'auspicio è che magari, visto che questa roba purtroppo sta succedendo, possa essere, no, un monito, possa svegliare chi è in difficoltà. Però la domanda secondo me va posta a lui. Sì, noi abbiamo evocato in questi giorni tante volte le famose vecchie regole, quelle che c'erano fino al 2007, che erano molto più rigide di quelle di oggi. Ecco, ad esempio, io non so quante delle 20 squadre che quest'anno fanno la Serie A con le vecchie regole potrebbero fare mercato liberamente. Beh, guarda, credo forse sulla dita di una mano. Quando sono state cambiate, io ho scritto un articolo all'epoca, mi ricordo, a proposito del derby Inter-Milan, che non si sarebbe potuto giocare in Lega Pro applicandoci i parametri più severi previsti dalla Lega Pro, e parliamo che erano 2008, tutti sui debiti, stavamo 2009. Parlando parliamo parametri che guardavano al cuore del problema tra indebitamento e ricavi. Io per rispondere un po' a Pierluigi dico solo questo, che una delle operazioni che sotto la lente degli inquirenti è questa cessione del brand fatta dal Parma nel 2013 del proprio marchio. Questa operazione è stata fatta in passato, negli anni 2000 in particolare, per chiudere i buchi, ma era una sorta di finanziamento, cioè tu la cedevi il club, il brand, a una tua controllata, questa controllata prendeva in prestito dei soldi da una banca e ti pagava quel brand, e quindi tu facevi la plusvalenza ma con soldi veri. Poi dopo riaffittavi il brand alla controllata, pagavi il canone che di fatto serviva a pagare quel mutuo. Non so se sono stato chiaro, ma di fatto c'era un'operazione reale. Nel caso molte ad averlo fatto questa operazione. Inter e Milan in primo luogo hanno incassato tra tutte e due più di 300 milioni. Poi ci hanno pensato Roma e Lazio, hanno incassato quasi 180 milioni in due. E hanno messo a posto tanti problemi che si erano create con le plusvalenze, insomma, ma qui raccontiamo troppo. Dico solo che nel caso del Parma la cessione è stata fatta, ma i soldi non sono stati versati, quindi è stata solo iscritta la plusvalenza. Sì, sì. Un'operazione analoga è stata fatta più o meno nello stesso periodo dalle parti di Genova, e non mi riferisco alla squadra che ha la maglia, diciamo, da ciclista. Non aggiungo altro. E chi vuole intendere intenda. Io cedo il brand di Pierluigi Pardo, mi paga. posso cedere il tuo brand? Sì. Poi riprendiamo i soldi, Vamo se paga a peso però, Cerchiamo sfruttiamo l'arma del peso, Angelo, buongiorno Torino. Buongiorno a tutti. Dica. Grazie per la convocazione. Volevo solo fare un commento alle cose che ha detto il signor Pardo, che tra l'altro approccia il mondo del calcio in questa maniera abbastanza allegra e piacevole. Però ho sempre un po' la sensazione, quando si parla di curve, di cori, prima accennava no, l'Aisel no, io sono tifoso della Juve quindi ne so qualcosa, ma ci rendiamo conto delle persone che frequentano queste curve? Cioè, è come voler insegnare qualcosa a sappiamo benissimo chi c'è nelle curve, le società lo sanno bene, perché poi i biglietti, le cose, sappiamo tante cose e continuiamo a chiamarli tifosi. Io continuo a sentire che si parla di tifosi. Come si fa a parlare di tifosi? Secondo me non è il caso di mescolare, perché nelle curve ci sono delinquenti, c'è gente che fa affari con le curve, con l'organizzazione del tifo, c'è gente normalissima che si diverte ad andare lì e che magari viene tirata in mezzo sbagliando da queste cose, quindi sì, non parlerei di curve. Credo però che ci sia anche molta leggerezza. E mi ricordo una cosa che mi disse il figlio di Paparelli, che ho intervistato un po' di anni fa, ero ancora Sky, 7-8 anni fa, e ce l'aveva anche lui questa percezione, la percezione poi che quella canzoncina 28 ottobre giornata storta, tanto per capirci, in maniera così quasi come spottò, in tanti la cantassero, senza cattiveria ovviamente, se avessero conosciuto Paparelli o semplicemente se si fossero messi un minuto a pensare al dolore di un tifoso che esce di casa, viene colpito da un razzo e muore, insomma nessuno canterebbe quella canzone, no? Ci sono delle cose che vengono fatte a cuor leggero, io non penso che nessuno di quelli che ha cantato questa canzoncina qui l'abbia fatto con la cattiveria o l'avrebbe voluto uccidere, ci mancherebbe altro. Cioè ci sono delle cose sulle quali secondo me un ragionamento ulteriore è utile da sviluppare, riflettere sul fatto che Pezzotto, che è un calciatore che si è sempre comportato bene e comunque è un essere umano, ha avuto un momento di difficoltà nella sua vita e stava per compiere un gesto così terribile che sarebbe potuto succedere a ognuno di noi o alle persone che conosciamo, perché ci può essere un momento di debolezza nella tua vita. Dopo che fai questa riflessione, ci pensi 8 secondi, a meno che tu non sia un pezzo di merda, ok? A meno che tu non sia un infame, una canzoncina così non la fai più, un coro così non lo fai più. Lo fai perché non ci pensi ed entri in questo meccanismo di sfottò fra le persone, per cui io tipo per il Napoli, io tipo per la Roma, bastardo, scappa, eccetera, eccetera. Sì, c'è una ritualità secondo me accettabile. Sì, ma... ripeto, a me piace lo stadio all'italiana, mi piacciono gli striscioni, non voglio sterilizzare lo stadio, non mi piace che ci siano anche gli ultra, che ci siano le curve, che abbiano un loro codice. Che abbiano il loro codice di responsabilità. Oppure varrebbe la pena anche dissociarsi un gesto eclatante, così ci si dissocia, si prendono le distanze. Anche sì, comunque va anche detto che questo sistema è poi quello che va bene ai club, perché quelle regole troppo rigide che abbiamo raccontato per un anno alla fine sono state cancellate su volontà dei club, ai quali va benissimo continuare a pagare 10, 15, 20, 30 mila euro per volta e si va avanti così, esattamente come funzionava fino a 2 anni fa, non è cambiato nulla, c'è stata questa parentesi in mezzo che ci ha fatto capire che evidentemente non abbiamo gli strumenti per fare qualcosa di serio. Certo, non a caso però De Laurentiis ieri ha chiesto una pulizia all'inglese dello stadio, che è giusto chiedere, magari non come condizione per un investimento, perché allora sentiamolo De Laurentiis, poi commentiamo anche quest'altro argomento. Ma guardate che se voi non andate dal faro e non fate applicare con un twist la legge inglese, io lo stadio non lo faccio. Cioè io sono pronto a investire i miei soldi e sto andando avanti con gli studi e non mi fermo, e sono pronto forse non al 31 maggio ma al 1 di luglio a iniziare i lavori, a prescindere dagli articoli o non articoli dei decreti legge o non decreti legge, perché poi è con la fattibilità e con la volontà propria che si risolvono i problemi, non attraverso le leggi. Questo De Laurentiis, dicevi? Beh, no, io concordo con il presidente De Laurentiis che chiede leggi all'inglese, ma il problema è che tu prima devi costruire uno stadio moderno e poi ripulisci quello stadio moderno dalla feccia che lo frequenta, distinguendoli dai veri tifosi. Il problema è che si confonde l'opinione pubblica mescolando le cose, e che il piano che mi risulta essere stato concordato col comune per una ristrutturazione da 20 milioni per il San Paolo è del tutto insufficiente. Facendo una battuta ho detto che non si rimettono a posto nemmeno i bagni del San Paolo con 20 milioni. Sì, figuriamoci creare uno stadio moderno. Peggio no, messo stadio, tra quelli di Serie A. Stadio moderno aiuta. Qui il concetto di forma e sostanza si confonde, cioè uno stadio moderno sicuramente aiuta, uno stadio per esempio con un sistema di telecamera a circuito chiuso che funzioni aiuta. Quello che è successo a Torino due settimane fa, l'abbiamo raccontato, un tifoso lancia un petardo, arrestato perché le immagini della Juventus fornite alla questura hanno consentito di identificarlo nell'arco di poche ore. Detto questo, 8 giorni fa ero a Rotterdam in uno stadio bellissimo, senza barriere, e pioveva di tutto, per cui le due cose, la cosa fondamentale è la certezza del diritto, e torniamo al discorso di Roma Fire, cioè il nostro è un paese nel quale vengono consentite delle cose, e io sono uno garantista e assolutamente contro lo Stato di polizia e contro la repressione, però oggettivamente da noi vengono concesse delle cose che in altri paesi non vengono concesse. Ci vuole la certezza della pena, la certezza che se tu compi un comportamento sbagliato verrai punito, se c'è questa cosa è un punto, se non c'è questa cosa hai ragione. E poi gli stadi aiutano, perché sicuramente una volta che tu hai questa certezza di regole, poi chiaramente lo stadio della Juve è uno stadio nel quale ogni singolo spettatore tu lo vedi, certo, lo puoi vedere, lo puoi inquadrare, ci sono altri stadi con le gabbie, Sì. Vai a Bergamo a vedere una partita, tanto per dire uno stadio. Pierluigi, ti ringrazio, dobbiamo chiudere. Ciao Pier, va bene. Ciao. Ti ringrazio anch'io. Ciao. Ci vediamo domenica. Ciao, domenica. Presto. Volevi dire, Marco, una battuta? No, stavo appunto a proposito di certezza delle regole. Io sto ancora aspettando dal 31 maggio di sapere chi ha ammazzato Ciro Esposito. Sì, questo certamente. E ci potrebbe essere un remake della finale dell'anno scorso nello stesso luogo, cioè Olimpico di Roma. Magari era il caso di ripensarla. Giovanni, ci vediamo domenica noi. Ci vediamo domenica dalle 17. Dalle 17 alle 19, con te presto Marco, grazie. Grazie a voi. Grazie Marco Bellinazzo. Sergio da Cesena, mi spiace, dobbiamo chiudere, ci sentiamo domenica con Giovanni Capuano, Pierluigi Pardo, lunedì come preferisce, l'aspettiamo qui. Grazie Giorgio De Luca, nostro autore, Filippo Oreggio in regia, Daniele Buonamici in redazione, ciao. Pochi secondi ormai, si aspetta solo il fischio finale, eccolo!